Ma quante cose rendevano questo molto più noioso. Le tenebre, la solitudine, la stanchezza cresciuta e ormai dolorosa. Tirava una brezzolina sorda, uguale, sottile, che doveva far poco servizio a chi si trovava ancora indosso quegli stessi vestiti che s'era messi per andare a nozze in quattro salti e tornare subito trionfante a casa sua. E ciò che rendeva ogni cosa più grave, quell'andare all'avventura e per così dire al tasto, cercando un luogo di riposo e di sicurezza. Quando s'abbatteva a passare per qualche paese, andava ad agio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio aperto, ma non vide mai altro segno di gente desta che qualche lumicino trasparente da qualche impannata. Nella strada, fuori dell'abitato, si soffermava ogni tanto, stava in orecchi per vedere se sentiva quella benedetta voce dell'Adda, ma invano. Altre voci non sentiva che un mugolio di cani che veniva da qualche cascina isolata, vagando per l'aria lamentevole insieme e minaccioso. Al suo avvicinarsi a qualcheduna di quelle, il mugolio si cambiava in un abbaiar frettoloso e rabbioso. Nel passare davanti alla porta sentiva, vedeva quasi, il bestione col muso al fessolino della porta raddoppiar gli urli, cosa che gli faceva andar via la tentazione di picchiare e di chiedere ricovero. E forse, anche senza i cani, non ci si sarebbe risolto. «Chi è là?» pensava. «Cosa volete a quest'ora? Come siete venuto qui? Fatevi conoscere! Non c'è osterie da alloggiare?» «Ecco, andandomi bene quel che mi diranno, se picchio, quando anche non ci dorma qualche pauroso che a buon conto si mette a gridare «Aiuto! Al ladro!» Bisogna aver subito qualcosa di chiaro da rispondere. E cosa ho da rispondere io? Chi sente un rumore la notte non gli viene in testa altro che ladri, malviventi, trappole. Non si pensa mai che un galantuomo possa trovarsi in strada di notte se non è un cavaliere in carrozza. Allora serbava quel partito all'estrema necessità e tirava innanzi con la speranza di scoprire almeno l'Adda, se non passarla in quella notte e di non dover andare alla cerca di giorno chiaro. Cammina, cammina, arrivò dove la campagna coltivata moriva in una sodaglia sparsa di felci e di scope. Gli parve, se non indizio, almeno un certo qual argomento di fiume vicino. E si inoltrò per quella, seguendo un sentiero che la traversava. Fatti pochi passi si fermò ad ascoltare, ma ancora invano. La noia del viaggio veniva accresciuta dalla salvatichezza del luogo, da quel non veder più né un gelso né una vite, né altri segni di coltura umana che prima pareva quasi che gli facessero una mezza compagnia. Ciò nonostante andò avanti e siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe apparizioni, lasciatevi in serbo dalle novelle sentite raccontare da bambino, così per discacciarle o per acquietarle, recitava camminando delle orazioni per i morti. A poco si trovò tra macchie più alte, di pruni, di quercioli, di marruche. Seguitando ad andare avanti, allungando il passo, con più impazienza che voglia, cominciò a vedere fra le macchie qualche albero sparso. E andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi, ma lo vinse. E contro voglia andò avanti, ma più che si inoltrava, più il ribrezzo cresceva. Più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose. L'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate, che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla luna. Lo stesso scrosciare delle foglie secche che calpestava o muoveva camminando aveva per il suo orecchio non so che di odioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa, e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a reggere la persona. Sentiva la brezza notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote. Se la sentiva scorrere tra i panni e le carni e raggrinzarle e penetrare più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore. A un certo punto quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo parve che a un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi affatto, ma atterrito più d'ogni altra cosa del suo terrore, richiamò al cuore gli antichi spiriti e gli comandò che reggesse. Così, rinfrancato un momento, si fermò su due piedi a deliberare. Risolveva ad uscire subito di lì per la strada già fatta, d'andar dritto all'ultimo paese per cui era passato, di tornare fra gli uomini e di cercare un ricovero, anche all'osteria. E stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio d'acqua corrente. Sta in orecchi, ne è certo, esclama: «È Landa!» Fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. La stanchezza quasi scomparve, gli tornò il polso, sentì il sangue scorrere libero e tepido per tutte le vene, sentì crescere la fiducia dei pensieri e svanire in gran parte quell'incertezza e gravità delle cose, e non esitò a internarsi sempre più nel bosco, dietro all'amico rumore. Arrivò in pochi momenti all'estremità del piano, sull'orlo di una riva profonda, e guardando in giù tra le macchie che tutta la rivestivano, vide l'acqua luccicare e correre. Alzando poi lo sguardo, vide il vasto piano dell'altra riva, sparso di paesi, e al di là i colli, e su uno di quelli una gran macchia biancastra, che gli parve dovesse essere una città. Bergamo, sicuramente. Scese un po' sul pendio e, separando e diramando con le mani e con le braccia il prunaio, guardò giù se qualche barchetta si muovesse nel fiume. Ascoltò se sentisse battere dei remi, ma non vide né sentì nulla. Se fosse stato qualcosa di meno dell'Adda, Renzo scendeva subito per tentarne il guado. Ma sapeva bene che l'Adda non era fiume da trattarsi così, in confidenza. Perciò si mise a consultar tra sé, molto a sangue freddo, sul partito da prendere. Arrampicarsi su una pianta e star lì ad aspettare l'aurora, forse per 6 ore, che poteva ancora indugiare, con quella brezza, con quella brina, vestito così, c'era più che non bisognasse per intirizzir davvero. Passeggiare innanzi e indietro tutto quel tempo, oltre che sarebbe stato poco efficace aiuto contro il rigore del sereno, era un richieder troppo da quelle povere gambe che già avevano fatto più del loro dovere. Gli venne in mente d'aver veduto in uno dei campi più vicini alla sodaglia una di quelle capanne coperte di paglia, costrutte di tronchi e di rami, intonacati poi con la mota, dove i contadini del Milanese usan l'estate depositar la raccolta e ripararsi la notte a guardarla. Nell'altre stagioni rimangono abbandonate. La disegnò subito per suo albergo. Si rimise sul sentiero, ripassò il bosco, le macchie, la sodaglia e andò verso la capanna. Un usciaccio intarlato e sconnesso era rabbattuto senza chiave né catenaccio. Renzo l'aprì, entrò, vide sospeso per l'aria e sostenuto da ritorte di rami un graticcio a foggia da mac, ma non si curò di salirvi. Vide in terra un po' di paglia e pensò che anche lì una dormitina sarebbe ben saporita. Prima però di sdraiarsi su quel letto che la provvidenza gli aveva preparato, vi si inginocchiò a ringraziarla di quel beneficio e di tutta l'assistenza che aveva avuto da essa in quella terribile giornata. Disse poi le sue solite devozioni e per di più chiese perdono a Domeneddio di non averle dette la sera avanti, anzi, per dir le sue parole, d'essere andato a dormire come un cane, e peggio. «È per questo», soggiunse poi tra sé, appoggiando le mani sulla paglia ed in ginocchioni mettendosi a giacere, «per questo m'è toccata la mattina quella bella svegliata». Raccolse poi tutta la paglia che rimaneva all'intorno e se l'accomodò addosso, facendosene alla meglio una specie di coperta per temperare il freddo, che anche là dentro si faceva sentire molto bene, e vi si rannicchiò sotto con l'intenzione di dormire un bel sonno, parendogli d'averlo comprato anche più caro del dovere. Ma appena ebbe chiuso gli occhi, cominciò nella sua memoria o nella sua fantasia, il luogo preciso non ve lo saprei dire, cominciò, dico, un andare e venire di gente così affollato, così incessante, che addio sonno. Il mercante, il notaio, i birri, lo spadaio, l'oste, Ferrer, il vicario, la brigata dell'osteria, tutta quella turba delle strade, poi Don Abbondio, poi Don Rodrigo, tutta gente con cui Renzo aveva che dire. 3 sole immagini gli si presentavano, non accompagnate da alcuna memoria amara, nette d'ogni sospetto, amabili in tutto, e 2 principalmente molto differenti al certo, ma strettamente legate nel cuore del giovane: una treccia nera e una barba bianca. ma anche la consolazione che provava nel fermare sopra di esse il pensiero era tutt'altro che pretta e tranquilla. Pensando al buon frate, sentiva più vivamente la vergogna delle proprie scappate, della turpe intemperanza, del bel caso che aveva fatto dei paterni consigli di lui. E contemplando l'immagine di Lucia, non ci proveremo a dire ciò che sentisse. Il lettore conosce le circostanze, se lo figuri. E quella povera Agnese, come l'avrebbe potuta dimenticare? Quella Agnese che l'aveva scelto, che l'aveva già considerato come una cosa sola con la sua unica figlia, e prima di ricevere da lui il titolo di madre, aveva preso il linguaggio ed il cuore, e dimostrata coi fatti la premura. Ma era un dolore di più, e non il meno pungente, quel pensiero che, in grazia appunto di così amorevoli intenzioni, di tanto bene che voleva a lui, la povera donna si trovava ora snidata, quasi raminga, incerta dell'avvenire, e raccoglieva guai e travagli da quelle cose appunto da cui aveva sperato il riposo e la giocondità dei suoi ultimi anni. Che notte, povero Renzo! Quella che doveva essere la quinta delle sue nozze. Che stanza, che letto matrimoniale! E dopo qual giornata? E per arrivare a qual domani, a qual serie di giorni? Quel che Dio vuole, rispondeva ai pensieri che gli davano più noia. Quel che Dio vuole. Lui sa quel che fa. C'è anche per noi. Vada tutto in sconto dei miei peccati. Lucia è tanto buona. Non vorrà poi farla patire un pezzo, un pezzo, un pezzo. Tra questi pensieri, e disperando ormai d'attaccar sonno, e facendosegli il freddo sentir sempre più, a segno che era costretto ogni tanto a tremare e a battere i denti, sospirava la venuta del giorno e misurava con impazienza il lento scorrere dell'ore. Dico misurava perché ogni mezz'ora sentiva in quel vasto silenzio rimbombare i tocchi di un orologio. Mi immagino che dovesse essere quello di Trezzo. E la prima volta che gli ferì gli orecchi quello scocco così inaspettato, senza che potesse avere alcuna idea del luogo donde venisse, gli fece un senso misterioso e solenne, come d'un avvertimento che venisse da persona non vista, con una voce sconosciuta. Quando finalmente quel martello ebbe battuto 11 tocchi, che era l'ora disegnata da Renzo per levarsi, s'alzò mezzo intirizzito, si mise in ginocchioni, disse, e con più fervore del solito le devozioni della mattina, si rizzò, si stirò in lungo e in largo, scosse la vita e le spalle, come per mettere insieme tutte le membra che ognuno pareva che facesse da sé. Soffiò in una mano, poi nell'altra. Se le stropicciò, aprì l'uscio della capanna e per la prima cosa diede un'occhiata in qua e in là per vedere se c'era nessuno. E non vedendo nessuno, cercò con l'occhio il sentiero della sera avanti. Lo riconobbe subito e prese per quello. Il cielo prometteva una bella giornata. La luna in un campo, pallida e senza raggio, pure spiccava nel campo immenso di un bigio ceruleo che giù giù verso l'oriente s'andava sfumando leggermente in un giallo roseo. Più giù all'orizzonte si stendevano a lunghe falde ineguali poche nuvole fra l'azzurro e il bruno, le più basse orlate al di sotto di una striscia quasi di fuoco che di mano in mano si faceva più viva e tagliente. Da mezzogiorno altre nuvole ravvolte insieme, leggeri e soffici, per dir così, s'andava allumeggiando di mille colori senza nome. Quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Se Renzo si fosse trovato lì andando a spasso, certo avrebbe guardato in su e ammirato quell'albeggiare così diverso da quello che era solito vedere nei suoi monti. Ma badava alla sua strada e camminava a passi lunghi per riscaldarsi e per arrivar presto. Passa i campi, passa la sodaglia, passa le macchie, attraversa il bosco, guardando in qua e in là, e ridendo e vergognandosi nello stesso tempo del ribrezzo che vi aveva provato poche ore prima. È sul ciglio della riva, guarda giù, e di tra i rami vede una barchetta di pescatore che veniva adagio contr'acqua, radendo quella sponda. Scende subito per la più corta, tra i pruni, è sulla riva. Dà una voce leggera, leggera al pescatore, e con l'intenzione di far come se chiedesse un servizio di poca importanza, ma senza avvedersene, in una maniera mezzo supplichevole, gli accenna che approdi. Il pescatore gira uno sguardo lungo la riva, guarda attentamente lungo l'acqua che viene, si volta a guardare indietro, lungo l'acqua che va, e poi drizza la prora verso Renzo e approda. Renzo, che stava sull'orlo della riva quasi con un piede nell'acqua, afferra la punta del battello, ci salta dentro e dice: «Mi fareste il servizio, col pagare, di tragittarmi di là?» Il pescatore l'aveva indovinato, già voltava da quella parte. E Renzo, vedendo sul fondo della barca un altro remo, si china e l'afferra. «Adagio, adagio!» disse il padrone. Ma nel veder poi con che garbo il giovine aveva preso lo strumento e si disponeva a maneggiarlo, «Ah, ah!» riprese, «siete del mestiere!» «Un pochino», rispose Renzo, e ci si mise con un vigore, con una maestria, più che da dilettante, e senza mai rallentare dava ogni tanto un'occhiata ombrosa alla riva da cui si allontanavano, e poi una impaziente a quella dove erano rivolti, e si coceva di non poterci andare per la più corta, che la corrente era in quel luogo troppo rapida per tagliarla direttamente, e la barca, parte rompendo, parte secondando il filo dell'acqua, doveva fare un tragitto diagonale, come accade in tutti gli affari un po' imbrogliati, che le difficoltà alla prima si presentino all'ingrosso e nell'eseguire poi vengano fuori per minuto. Renzo, ora che l'Adda era, si può dir, passata, gli dava fastidio il non saper di certo se lì essa fosse confine o se, superato quell'ostacolo, gliene rimanesse un altro da superare. Onde, chiamato il pescatore, accennando col capo quella macchia biancastra che aveva veduto la notte avanti e che allora gli appariva ben più distinta, disse: «È Bergamo quel paese?» «La città di Bergamo», rispose il pescatore. «E quella riva lì è Bergamasca?» «Terra di San Marco!» «Viva San Marco!» esclamò Renzo. Il pescatore non disse nulla. Toccano finalmente quella riva. Renzo vi si slancia, ringrazia Dio tra sé, e poi con la bocca il barcaiolo. Mette le mani in tasca, tira fuori una berlinga che, attese le circostanze, non fu un piccolo sproprio, e la porge al galantuomo, il quale, data ancora un'occhiata alla riva milanese e al fiume di sopra e di sotto, stese la mano, prese la mancia, la ripose, poi strinse le labbra e per di più ci mise il dito in croce, accompagnando quel gesto con un'occhiata espressiva, e disse poi: «Buon viaggio!» e tornò indietro. Perché la così pronta e discreta cortesia di costui verso uno sconosciuto non faccia troppo maravigliare il lettore, dobbiamo informarlo che quell'uomo, pregato spesso di un simile servizio da contrabbandieri e da banditi, era avvezzo a farlo, non tanto per amore del poco e incerto guadagno che gliene poteva venire, quanto per non farsi dei nemici in quelle classi. Lo faceva, dico, ogni volta che potesse essere sicuro che non lo vedessero né gabellieri, né sbirri, né esploratori. Così, senza voler più bene ai primi che ai secondi, cercava di soddisfarli tutti, con quell'imparzialità che è la dote ordinaria di chi è obbligato a trattar con certuni e soggetto a render conto a cert'altri. Renzo si fermò un momentino sulla riva a contemplar la riva opposta, quella terra che poco prima scottava tanto sotto i suoi piedi. «Ah, ne son proprio fuori», fu il suo primo pensiero. «Sta lì, maledetto paese», fu il secondo, l'addio alla patria. Ma il terzo corse a chi lasciava in quel paese. Allora incrociò le braccia sul petto, mise un sospiro, abbassò gli occhi sull'acqua che gli scorreva ai piedi e pensò: «È passata sotto il ponte». Così, all'uso del suo paese, chiamava per antonomasia quello di Lecco. «Ah, mondo birbone! Basta! Quel che Dio vuole». Thank you.